Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia. Ascoltatori, dalla sura della famiglia di Imran ascolteremo ora i versetti 189 e 190 dalla voce del fratello Borumand. Seguirà la traduzione in lingua italiana. Dei cieli e della terra e nell'alternarsi della notte e del giorno ci sono certamente segni per coloro che hanno intelletto. Radio Italia, una finestra sul mondo, la sezione italiana della radio dell'Iran trasmette per voi tutti i giorni dalle 6.30 alle 7.30 ora, ma poi invece in onda corta sulle seguenti frequenze: 15.480 kHz, pari a 19 metri, 17.660 kHz, pari a 16 metri. Il programma serale va in onda dalle 19.30 alle 20, ora di Greenwich, sempre in onde corte sulle seguenti frequenze: 7.315 kHz, pari a 41 metri, 9.755 kHz, pari a 31 metri. La replica per Teheran, il numero 6 di frequenza, va in onda dalle 9.30 alle 10.30 UTC su 99.5 MHz. Gentili ascoltatori, vi invitiamo a visitare il nostro sito italian.iri.ir per ascoltarci dal vivo in differita, oppure leggere le ultime notizie, i commenti e le sezioni speciali. salve cari ascoltatori, Allah Muhammad, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, da Teheran. La programmazione di stasera, sabato 11 maggio 2013, prevede un'apertura del notiziario accompagnato da una prevenuta. Nella parte conclusiva vi presenteremo la rubrica Noi e i radioascoltatori, ma ora diamo spazio alle notizie. Rimanete con noi. Cominciamo come di consueto con i principali titoli. Iran e le affermazioni del sommo leader della rivoluzione islamica. Iran, presidenziali, candidato capo al reattore nucleare Jalili. Iran, il dialogo tra i paesi della regione e la soluzione migliore per sanare la situazione di crisi. Rafforzare la struttura della famiglia e il rispetto per le donne sono due fattori importanti per la nostra società. Lo ha affermato oggi la suprema guida della rivoluzione islamica, Somo Ayatollah Khamenei, ricevendo centinaia di attiviste universitarie. Le attiviste dovrebbero mantenere la loro presenza in società e difendere i valori della rivoluzione islamica, ha aggiunto il suo leader. E in seguito ha affermato sulla eguaglianza tra donne e uomini e ha detto che dal punto di vista dell'Islam le donne e gli uomini hanno nascono, scusate, diversamente, ma dal punto di vista sociale, giuridico e dei diritti sono non esiste nessuna differenza tra di loro. Le donne, ha concluso la suprema guida, hanno avuto un importante ruolo nella vittoria della rivoluzione islamica e anche oggi devono essere presenti in tutte le scene e continuare ad aiutare il rafforzamento della rivoluzione islamica. Iran presidenziali. Said Jalili, capo negoziatore iraniano per il nucleare, si è candidato alle elezioni presidenziali iraniane del 14 giugno. Intanto si stanno chiudendo la presentazione delle candidature. Finora, oltre a Jalili, ha formalizzato la candidatura a esponenti come il sindaco di Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ghulam Ali Azadeh, dell'ex presidente del Parlamento, Manoucher Mottaki, ex ministro degli esteri, Ali Akbar Velayati, consigliere per gli affari internazionali della guida suprema, ed ex presidente Ali Akbar Hashemi Rafsanjani. Il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ramin Mehmanparast ha affermato che le consultazioni e le cooperazioni generazionali costituiscono la soluzione migliore alla crisi in atto nella regione. Il dialogo tra i paesi dell'area può rimuovere qualsiasi pretesto per ingerenze da parte di attori esterni alla regione, ha aggiunto Mehmanparast, il quale ha annunciato che è atteso a Teheran, proprio nell'ambito della politica del dialogo, il capo della diplomazia qatariota, Sheikh Ahmed Ben Jassem Ben Jaffar Al-Thani, che è anche vice premier del suo paese. Il Qatar è attualmente una delle fonti principali dell'instabilità medio orientale a seguito di un totale asservimento agli interessi americano-occidentali. Abbiamo pagina Russia, è impossibile convocare una conferenza sulla Siria entro la fine del mese perché è estremamente difficile stabilire che debba partecipare all'incontro in rappresentanza dell'opposizione, chi abbia la legittimità per essere presente e chi no. Lo ha detto un alto funzionario russo che ha presenziato ieri al colloquio tra il presidente Vladimir Putin e il premier britannico David Cameron dedicato alla Siria. Il funzionario ha chiesto l'anonimato all'agenzia ITAPAS pochi giorni fa. Il segretario di Stato americano John Kerry, in visita a Mosca, disse che la conferenza poteva avere luogo prima della fine del mese. Siria. L'ambasciatore siriano all'ONU Bashar al-Jafari ha detto al Consiglio di sicurezza che la banda terroristica di fronte al-Nusra, filiale di Al-Qaeda in Siria, ha rivendicato nel corso dell'ultimo anno almeno 600 attacchi terroristici contro uffici statali, scuole, ospedali e luoghi religiosi, e assassinando personalità pubbliche e numerosi civili. Iraq. Almeno 9 persone sono morte e 22 sono rimaste ferite oggi in Iraq nell'esplosione di un camion bomba guidato da un attentatore suicida contro la casa di un colonnello dei servizi di intelligence vicino a Katri. Ne dà notizia l'agenzia irachena MINA, sottolineando che tra le vittime ci sono alcuni bambini. L'esplosione ha distrutto la casa dell'ufficiale e una vicina. Le Coree. Oggi è arrivato in Corea del Sud una delle più grandi navi atomiche americane, la portaerei USS Nimitz, per prendere parte alle esercitazioni marittime congiunte con Corea del Sud ed America, porteranno avanti nelle acque sudorientali della Corea. La Nimitz ha una stanza di 97.000 tonnellate ed è ormeggiato dal porto di Busan. Le manovre delle marine militari a cui prenderà parte anche la portaerei si protrarranno per 5 giorni nel Mar Giallo, concludendosi venerdì. Il loro scopo sarà prepararsi al nuovo assalto di guerra e mettere a punto la cooperazione fra gli alleati, come ha affermato dal comandante delle Forze Armate Riunite. E questa è stata l'ultima notizia, grazie per l'attenzione. Esplosioni in Turchia, probabile pretesto per allargare il conflitto in Siria. Sono state 2 autobombe ad esplodere nella città turca di Reyhan Ali. Stando al Ministero degli Interni di Ankara, una nei pressi del municipio, l'altra a ridosso dell'ufficio delle poste. Nel frattempo il bilancio è già salito ad una 40 di morti e diverse dozzine di feriti, secondo il ministro di giustizia turco. Il premier Erdogan ha detto che il duplice attentato potrebbe essere legato o all'intesa con il PKK di Abdullah Öcalan oppure alle vicende siriane. Il capo della diplomazia turca, Davutoğlu, ha affermato in modo minaccioso che nessuno deve osare sfidare la pazienza di Ankara e i servizi di intelligence turchi. Stabiliranno chi sia responsabile dei 2 attacchi terroristici. Appena ieri la Turchia ha insinuato di nuovo che l'esercito siriano abbia fatto ricorso all'uso di armi chimiche, accusa già sollevata da Londra, Washington, Tel Aviv e dalle bande terroristiche e smentita da Carla Del Ponte della Commissione ONU sulla Siria. Erdogan è arrivato a dichiarare che se gli USA decidessero di istituire una zona di non volo in Siria, in attaccando la sovranità nazionale siriana, lui appoggerebbe la decisione. A questo punto, perché non pensare che le due autobombe possano essere state opera di un regime come quello turco, apertamente schierato a fianco dei gruppi terroristici che seminano la violenza in Siria e che sarebbe l'impossibile per trascinare nella guerra l'intero apparato militare occidentale? Non va dimenticato che Erdogan vedrà Barack Obama tra 5 giorni. Dell'Iran. Noi e di Radio Ascoltatori. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In nome di Dio, il clemente e il misericordioso. Eccoci di nuovo insieme, cari amici, per cominciare un altro proprio appuntamento con Angolo della Forza. Anche un saluto caloroso da parte mia e benvenuti alla rubrica che è dedicata interamente ai vostri messaggi. A tra poco. Allora, cari amici, vi parla Sohel e mia collega, Simate, vi terremo in compagnia per circa mezz'ora? No, di solo più? 15 minuti. No, di meno. Ah, di meno, sì, mi dimenticavo. Una sì, volta. Una volta era mezz'ora, adesso sì. Che io, dopo una lunga assenza, sono tornato, adesso devo ancora esercitare per essere aggiornato per il programma di noi radioascoltatori. Sì, appunto, ti volevo chiedere da quanto tempo sei stato assente. Penso, Shima, che quanti da... mesi? Come? Quanti mesi? Un anno? Io penso che sì, circa un anno, perché sai, perché io mi sono dedicato di più alle rubriche di attualità, di politica, eccetera, sì, eccetera, appunto. Quindi ho lasciato il timone di questo programma e a te, che avete veramente magistralmente condotto fino ad ora questa rubrica. Allora, novità, ma tante novità, tante mi piace sapere. Io volevo, con il tuo permesso, cominciare proprio il programma di oggi con una bellissima sorpresa che... In che senso bellissima? Adesso ti spiego, che comunque leggendo questa sorpresa sarai tu a, a esaminare, a dire perché, a concludere perché. Allora ti dico, un nostro amico messicano, sì? José Geronimo Zamora. Ecco, hai detto, tu lo conosci benissimo, sì, perché tu, sei tu amico. Che scrivi il programma Lezioni di Farsi. Lui ci ha mandato una bellissima cartolina del suo paese. Ah, lui ci ha inviato? Sì, diciamo, come? È di Messico una cartolina. Sto leggendo una località, penso Palazza Centrale del Bernal. Sì, la località si chiama Bernal, ma il fatto sorprendente è veramente una bellissima sorpresa che lui ha scritto il suo diciamo, un messaggio in farsi, in persiano. Sì, lui è veramente bravo. Infatti, sì, l'unico, diciamo, l'unico errore completamente perdonabile che ha scritto la parola foto in persiano ak con alef e con non con ein, perché che ci sono delle cose ancora un po' difficile, ma veramente non ha ragione, ecco, non è... ha fatto un capolavoro secondo me, ascoltando il fratello lui è riuscito a scrivere proprio sette frasi in persiano bellissime. E puoi leggerle? Ecco, sì. Lui ha scritto Salon Dostane Aziz, cioè Salon, Salon, salutiamo, cari amici, Noruz Mubarak, noi ha voluto congratularsi con noi per il Capodanno iraniano il 21 marzo, poi ha detto che Sole Jadide Hezaro Sissado Navado Do, cioè anno iraniano del calendario 1392, Hale Shoma Chetorid, bellissimo, anche se un po' di errore esiste, ma veramente bravo, bravo José, e poi dice che questo è in Axecuhe Bernal, questo lì ha spiegato che questa monte che raffigura sulla cartolina è si chiama Bernal, e poi dice che non ha detto dove si trova, non ha detto no, ha detto che man fasle bahor dustara, cioè dice che mi piace la primavera, sì, fasle bahor zibotarin ast, è la più bella stagione secondo non solo José, ma di molte persone che veramente, anche secondo me, anche secondo te, a me piace di più l'inverno, la neve. Ecco, volevo dire questa sorpresa bellissima, caro José, caro Geronimo Zamora Mata, che manderemo senz'altro materiale che ci hai richiesto, ti ricambiamo tutta questa gentilezza e saluti che ci hai mandato. Abbiamo già inviato un premio a questo nostro amico messicano. Ha già ricevuto un premio? Sì, un premio, ecco, non mi sa, lui. Poi sicuramente riceverà altri materiali come questo, eccetera, eccetera, e cerca di essere ancora in contatto con noi. Lui veramente è un fedelissimo amico, però che ne dice di un po' di musica e poi sono d'accordissimo. Continuare con i messaggi dei nostri ascoltatori, vogliamo parlare un po' dei cambiamenti che sono successi nella nostra radio. Io speravo che lo facesse dovuto durante il programma precedente, che tu non c'eri, io e Davuto abbiamo condotto, e lui, sì, lui era al telefono, ma si è limitato soltanto a annunciare qualche novità per quanto riguarda il programma. Come hai detto giustamente tu, ci sono stati dei cambiamenti, da tanti cambiamenti, sì, ora adesso si occupa di più dei suoi studi universitari, e poi al proprio, se vuol dire che è stata cambiata la... Sì, la direzione di Radio Italia, adesso c'è un altro, diciamo, responsabile, ma i programmi sono non cambiano nel senso del contenuto, ma di forma sicuramente cercheremo come sempre di migliorare, e io per ora farò proprio questo programma, mi devi supportare ancora per quanto tempo non lo so. Poi per quanto riguarda i messaggi, mettere tu hai qualcosa da lì? Io volevo ringraziare il nostro amico Aldo Tedi, che è da anni che ci accompagna e ci invia i suoi rapporti d'ascolto, e anche questo è dell'aprile 2013, però purtroppo lui non ci ha lasciato nessun commento. Poi vediamo, un altro rapporto d'ascolto è di Gian Angelo Rosati. Però il suo rapporto di ascolto è vecchio, è del, vediamo la data, del 28 aprile 2013. E poi Paolo, la gente, lo salutiamo proprio in questo momento per averci mandato un messaggio che è di più di un messaggio, un suo parere su una notizia, purtroppo su una notizia tragica di due ragazzi che hanno deciso di togliersi, proprio di suicidarsi per il lavoro, per erano disoccupati. Lui su questa notizia ha scritto con queste tragedie, gli unici che propongono soluzioni serie e durature sono la Repubblica Islamica dell'Iran e Radio Deneri. Ti ringraziamo Paolo Mazzini Spaniera, speriamo veramente di un presto miglioramento della situazione. Possiamo andare avanti? Non abbiamo più tempo e dobbiamo andare per saluto finale. Amici, dobbiamo salutarvi. Allora, io vi annuncio l'indirizzo di Radio Italia, Area World Service, Radio Italia, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran. E amici, inviate le vostre email a questo indirizzo, italian.irid@gmail.com. Grazie per l'attenzione. E a presto.